Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Fermo restando che qualche buon dato macroeconomico arriva in un'Italia che va in vacanza, in cui le notizie principali riguardano la politica, la tenuta del governo, ma insomma in realtà mentre molto si discute di altri temi, l'economia italiana sembra, e lo dico così per una prudenza in qualche modo della ragione, ma sembra, dati alla mano, aver imboccato con più forza la strada della ripresa. Il dato del PIL italiano di oggi lo dimostrerebbe, così come quello sulla produzione industriale. Dicevo, mentre silenziosamente l'Italia riparte, ci sono altri temi che tengono banco, e mi riferisco per esempio alla polemica sempre più calda sul grano. Caldo è il termine corretto, perché ne abbiamo parlato 4 giorni fa. Poi avete visto cosa è successo in Russia con gli incendi che hanno messo a rischio anche alcuni impianti nucleari dell'ex Unione Sovietica. La situazione è tesissima, il blocco dell'esportazione di grano da parte russa ha fatto schizzare a record di prezzi. Cercheremo oggi di capire in maniera molto concreta con chi rappresenta per esempio i panificatori e gli agricoltori che cosa capiterà poi nelle nostre tasche. E poi la vicenda Tirrenia. Perché? Perché questa è una saga che stiamo seguendo da mesi. Non si riesce a privatizzare la Tirrenia, ci costa qualcosa come 220 milioni di euro l'anno, ci è già costata 6 miliardi e mezzo di euro in 20 anni, ogni biglietto che stacca la Tirrenia costa a noi contribuenti, ogni biglietto 22 euro, perché tanto vale, diciamo, la contribuzione di Stato sulla Tirrenia, e ciò nonostante non si riesce a privatizzarla. Bloccata l'offerta da parte di Fintecna, che è il controllante della Tirrenia, l'unica offerta che è rimasta sul tavolo, devo dire un'offerta così, un po' bizzarra, perché il principale azionista era la Regione Sicilia, che punta a mantenere anche tutti i collegamenti che la Tirrenia offre con la Sicilia attraverso Siremar, però punta soprattutto a ottenere i 100 milioni di euro che lo Stato ha garantito darà per i prossimi 12 anni alla Tirrenia, 1 miliardo e 200 milioni di euro per i prossimi, complessivamente per i prossimi 12 anni, ammesso e non concesso che l'Europa non bocci questa decisione come aiuti di Stato. Bloccata anche quella, si riparte da zero e dovremmo riuscire ad avere Vincenzo Norato, che oltre che essere un velista, con Luna Rossa ha sfidato molte volte l'America's Cup, con Mascolzione Latino, scusatemi, è il proprietario di Mobile Lines, che oggi ha dichiarato: noi, se si leva Siremar, siamo disponibilissimi a acquistarla anche domani, la Tirrenia, nonostante i 780 milioni di euro di debiti su cui galleggia, il caso di dirlo, la compagnia di trasporto marittimo Tirrenia. Di questo parleremo, quindi PIL, produzione industriale, prezzo del grano, Tirrenia, privatizzazioni e poi anche la borsa, come sempre. Il numero per i vostri SMS è 349-238-6666. Le altre notizie in breve. Allora, iniziamo come sempre anche dai mercati, che hanno girato il negativo soprattutto per un dato, il dato americano sulla disoccupazione. Qui adesso vi arriveremo, c'è qualcosa di inspiegabile. Anche gli americani evidentemente hanno qualche problema nel calcolare la disoccupazione, perché ci sono praticamente 90.000, ci sono 20.000 occupati in meno nel tasso di luglio. Ma il dato è ancora peggio se si va a vedere tutto il periodo da inizio anno in poi. Insomma, per farla breve, poi ce ne occuperemo in maniera più estesa. I disoccupati americani o gli occupati americani sono molto meno delle attese, quindi i disoccupati sono più delle attese, e le borse ne prendono atto e forse ricordano quelle parole che si sono meritate al nostro gufo, pronunciate da Alan Greenspan inizio settimana, questa mi sembra una, l'America è in una specie di recessione. Ebbene, le borse hanno girato tutte. In questo momento l'America perde l'1,3%, Parigi perde l'1,5%, Francoforte l'1,2%, Londra lo 0,70%. L'Italia perde l'1,22%, con però Fondiaria SAI che bene si comporta, anzi molto bene, più 4,6%, Telecom più 1,90% e Unipol più 0,44%. Non male anche l'andamento di Azimut, tutto sommato meno 0,26% di Mediolanum, che è invariata, così come Exor che perde solo lo 0,3%. Invece sul fronte opposto i cali più forti si registrano su Tenaris, meno 3,70%, Geox meno 3,60%, Luxottica meno 2,20%, Intesa meno 2 come A2A e Popolare di Milano, UbiBanca meno 1,90% come Enel. L'1,80% lo perde in pregilo, ma è l'1,70% è il calo di Parmalat, l'1,60% quello di Generali, di Pirelli e anche di Snam, Rete, Gas. E quindi è sembrato essere un fuoco fatuo quel rialzo di borsa che si è registrato all'inizio settimana. Devo dire che oggi le cose non erano partite male, ma ripeto, c'è un dato sulla disoccupazione americana nettamente deludente, nettamente peggiore rispetto alle attese. Sale nel frattempo l'Euribor, il tasso che praticano le banche tra di loro quando devono prestarsi i soldi, no? Per i prestiti a 3 mesi, 0,905 ai massimi da un anno, e poi schizza verso l'alto l'euro, adesso è a quota 1,33. Anche in questo caso l'euro si è rafforzato dopo il dato americano sugli occupati. Il dato è relativo agli occupati nelle aziende private, perché nonostante il tasso di disoccupazione americano sia risultato un po' meglio delle stime al 9,5%, la delusione per un dato nettamente sotto le attese ha fatto schizzare anche il rendimento dei bot americani, dei treasury bond. E ancora per quello che riguarda l'America, il gruppo assicurativo americano AIG ha chiuso il secondo trimestre con una perdita netta di 2 miliardi e 600 milioni di dollari contro un utile di 1 miliardo e 800 milioni di dollari dell'anno precedente. Ricorderete che insomma quella di AIG fu la più grossa forse operazione di salvataggio di tutta la crisi del 2008-2009, insomma è il colosso americano dei mutui AIG. Ebbene, il gruppo ha detto di avere sufficiente liquidità per almeno i prossimi 12 mesi e che la propria esposizione verso la Grecia è di 1 miliardo di dollari, quella verso Portogallo, Italia, Irlanda, Ungheria e Spagna di 2 miliardi di dollari. E poi Royal Bank of Scotland, a sorpresa invece, ha chiuso inutile il semestre per la prima volta dal 2007. Royal Bank of Scotland è stata una delle banche più coinvolte, di fatto quasi nazionalizzata, dopo la crisi che ha coinvolto anche le banche britanniche. Chiudiamo per quello che riguarda le trimestrali con Allianz, che è il primo gruppo assicurativo europeo tedesco, e ha chiuso il secondo trimestre con un utile in calo del 46%. In chiaroscuro quindi, ma i dati... Ma in Germania qualcosa si muove, però anche qui attenzione, perché la produzione industriale tedesca a giugno, che per noi è fondamentale visto che la Germania è il primo mercato di sbocco per l'export italiano, allora ha fatto meno 0,6% a giugno rispetto a maggio. Il dato è peggiore, non c'è niente da dire, rispetto alle attese degli analisti che avevano previsto un più 0,5%. Certo, rispetto all'anno scorso la produzione industriale tedesca è un più 11%, però preoccupa un po' il raffreddamento. Invece l'economia spagnola cresce nel secondo trimestre di poco, di uno 0,2% rispetto al primo trimestre, ma su base annua invece la Spagna è ancora messa male, perché il PIL spagnolo nel secondo trimestre rispetto a un anno prima ha fatto un meno 0,2%. E poi c'è l'Italia. Dicevamo buono il dato perché il PIL italiano nel secondo trimestre ha fatto più 0,4% rispetto al primo trimestre, più 1,1% rispetto all'anno prima. E tra l'altro questo grazie soprattutto all'industria e ai servizi, invece il valore aggiunto dell'agricoltura è stato in calo a confronto con altri paesi. Cioè, va fatto notare come il più 1,1% nel PIL italiano rispetto all'anno prima si confronta con un dato identico in Gran Bretagna. L'America ha fatto più 0,6, però la Gran Bretagna, se si prende l'intero semestre e lo si confronta con il primo semestre del 2009, va meglio dell'Italia perché fa più 1,6%. La cosa importante però al di là delle cifre in questi casi è il raffronto temporale, e allora vale la pena ricordare, per far capire a tutti, che il dato di oggi sull'andamento del PIL italiano è il più alto dal terzo trimestre del 2007, quando anno su anno l'economia italiana segnò un più 1,5%. È molto buono anche il dato sulla produzione industriale, buonissimo, da record quasi. Ogni tanto diamo anche delle buone notizie, festeggiamo le buone notizie, perché il dato sulla produzione industriale di giugno ha fatto più 8,2% rispetto al giugno del 2009 ed è il miglior dato anno su anno nella produzione industriale dal dicembre del 2000. Questo è un dato già corretto per quello che riguarda i giorni lavorati, altrimenti il dato grezzo era dell'8,1%. Ripeto, un PIL che cresce dell'1,1%, una produzione industriale che cresce dell'8,2%, sono due dati che, voglio dire, ogni tanto, no, permettono anche di respirare. Era un po' che non riscoprivamo il nostro gallo, l'antigufo, non mi ricordo ormai quanti mesi dopo le docce fredde di marzo, aprile e maggio. Comunque ogni tanto torna anche il gallo. E ancora, invece qui non riscopriamo il gufo, ma due notizie non così belle ci sono, e praticamente da un lato la Corte dei Conti, come vi hanno ricordato anche i nostri GR, ha chiarito che i debiti dei comuni italiani nel 2008, alla faccia del federalismo, sono saliti a 62 miliardi di euro, un nuovo record. Praticamente i comuni continuano a ricorrere all'indebitamento. Tra l'altro il numero di amministrazioni locali che presentano squilibri economico-finanziari, ha detto la Corte dei Conti, continua a crescere. E poi ancora, non solo i comuni, anche le province sono sulla stessa strada, perché continua a aumentare la crescita del debito delle province, che raggiunge quasi gli 11,5 miliardi. No, lo dico perché poi sembra sempre che a indebitarsi, a essere sprecone sia lo Stato centrale, poi evidentemente anche gli enti locali hanno ben imparato, se abbiamo 62 miliardi più 11,5, 12 miliardi, cioè 74 miliardi di debito nel 2008 tra province e comuni. Sapete quanto vuol dire a cittadino? Vuol dire 1.300 euro a testa, il debito che grava sulla testa di ogni italiano, inclusi i neonati, per i debiti che hanno contratto i comuni e le province. Vabbè, insomma, praticamente poi fa tutto un calcolo la Corte dei Conti, dice, se consideriamo in termini atecnici le entrate correnti come una sorta di prodotto interno lordo dell'ente, l'incidenza media del debito per il comune è di oltre il 120%. Cioè, dice questo, se prendiamo le entrate dei comuni come se fosse il PIL che ogni comune sviluppa, sia che siano entrate di cassa, sia che siano trasferimenti da Roma, dallo Stato, i comuni viaggiano con un debito sul PIL del 120%, le province del 113%, quindi peggio di quanto non faccia lo Stato centrale. E poi Aleotti, beh, insomma, questa crisi ci ha abituato anche a dei personaggi mitici, no? Jérôme Kerviel, che da solo è riuscito con un'operazione a far perdere 5 miliardi a un gruppo come Société Générale, nessuno ci ha mai creduto che fosse solo colpa sua. E poi invece questo recordman, l'avete letto forse oggi sui giornali, insomma, Alberto Aleotti, titolare della farmaceutica Menarini, l'italiano che ha il record di tutti gli europei quanto a evasione fiscale, tutti i correntisti del Liechtenstein, quella che è stata trafugata e consegnata ai servizi segreti tedeschi. Pensa che il primo dei tedeschi aveva, diciamo, conti per 35 milioni di euro, ed era il primo. Aleotti, che è il primo in assoluto, ne aveva 476 milioni di euro, praticamente tutti scudati, quindi pagando il 5%, vado a spanne, insomma, 20 milioni, 22, 23 milioni di euro, è riuscito a scudare 476 milioni di euro. È sospettato però di aver evaso altri 500 milioni di euro. Va bene, va bene, va bene. È che venerdì non deprimiamoci troppo, che si va in vacanza, si va, si è in autostrada, si va al mare, in montagna, ai laghi. Intanto cerchiamo di capire, al di là di questi bei dati sul PIL, che sono la cosa che più ci conforta, che cosa sta succedendo nel settore alimentare e, scusate se insistiamo, ma quanto alto è il rischio che alla fine paghi pantalone, cioè chi vi parla e chi ci ascolta. Perché quando ci sono tensioni sulla filiera, poi di riffa o di raffa, tutti scaricano sul consumatore finale. È chiaro che mi sto riferendo al record nei prezzi del grano e al timore di speculazioni sui prodotti a base di grano. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, perché ieri Putin l'ha detto, insomma, stop temporaneo dal 15 agosto all'Expo di grano derivati, oggi in parte ridimensionato. Il vice premier russo Shuvalov ha detto che la decisione potrebbe essere corretta sulla base dell'andamento del raccolto, mancherebbero all'appello 15-20 milioni di tonnellate, la Russia è il terzo principale esportatore di grano al mondo e ne esporta per 90 milioni. E dovrebbe esportarne con questi incendi, carestia, assenza di pioggia, dovrebbe arrivare a esportarne 70-75 milioni. Eh sì, è ancora il timore delle speculazioni, i prodotti derivati esistono anche, anzi, c'è il Chicago Board of Trade, qualcuno se la ricorda, il film Una poltrona per due, no? Insomma, in cui era tutto giocato lì. È la borsa più importante al mondo per le materie prime, per il succo d'arancio, per il grano, per le commodity, come si chiamano in gergo, per tutto quello che non è petrolio, diciamo. Ebbene, ha fatto un più 50% a luglio il prezzo del grano, e dato di oggi corre ancora più 6,5%, oggi siamo a $8.68 al bushel, che è l'unità di misura. Praticamente ai massimi da due anni, era ormai la soglia dei $10 viene vista come soglia facilmente raggiungibile dal mercato. E oggi avete letto forse su Sole 24 Ore che, insomma, praticamente il garante Roberto Sambuco, garante Mister Prezzi, dice: attenzione, siamo pronti a intervenire anche con l'antitrust se si dovessero verificare nuovi aumenti dei prezzi dei prodotti a base di grano. I prezzi al dettaglio sono comunque gli stessi di un anno fa, quando la materia prima raggiunse i $13 per bushel, però insomma, e da tempo il prezzo viaggia a $8 a bushel, quindi già nel messaggio ci stanno guadagnando i produttori, non verrà tollerato alcun aumento del prezzo. Poi lancio l'allarme alla Coldiretti, l'abbiamo già avuto ospite, il prezzo dal prodotto al pane il 1000% in più, cioè non c'è nessuna giustificazione, dice la Coldiretti, sulla speculazione che sta avendo sul pane, che viene già pagato oltre 10 volte il prezzo della materia prima e il cui costo dipende per il 90% da fattori diversi della materia prima, quindi Dice ai panettieri: non provateci a aumentare il pane, visto che incide solo per il 10% il costo del grano sul prezzo finale. Allora giriamo l'appello a chi il pane lo fa e lo produce tutti i giorni. Presidente Luca Vecchiato, presidente della FIPPA, Federazione Italiana Panificatori, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. E grazie anche al presidente Confagricoltura Federico Vecchioni, buonasera presidente. Buonasera a voi. Con lei vorrei fare un ragionamento più di sistema, però prima partiamo dal pane. Allora Vecchiato, l'avviso è molto chiaro: il grano pesa solo per il 10%, dice anche Mister Prezzi, state vendendo i prodotti a un prezzo simile a un anno fa, quando il grano al bushel era a 12-13 dollari, adesso è a 8, anche se arrivasse a 10 non saranno accettate speculazioni che non hanno nessuna base, diciamo, effettiva, reale. Bene, dobbiamo però fare alcune precisazioni. La materia prima per produrre il pane si chiama farina, non si chiama grano, intanto, perché con il grano il pane non si produce, il grano non si riesce neanche a consumare. Quindi quando si fanno delle precisazioni su percentuali inesistenti, bisogna partire con la vera materia prima, che il panificatore con il grano al massimo può farci la zuppa. Partendo da questo presupposto, e sapendo che è una filiera abbastanza preoccupante per quello che abbiamo visto 3 anni fa sul mercato, io rispondo esclusivamente dicendo: dobbiamo prestare attenzione. I fornai italiani, le 25.000 imprese italiane artigiane, non hanno la minima intenzione di aumentare i prezzi del pane ai consumatori. Però bisogna fare molta attenzione, perché se non si fanno gli adeguati controlli corriamo il rischio che ci scoppi in mano la stessa situazione di 2 anni fa, quando il costo della farina è praticamente raddoppiato. E allora possiamo dire che incide per il 12-14% del costo della produzione del pane, ma se raddoppia, questo incide chiaramente sulle tasche degli italiani. Cioè, allora, una cosa che tutti vogliamo evitare. E soprattutto io voglio evitare per la mia categoria che dopo si vada a fare la caccia al colpevole. L'assalto ai forni. 3 anni fa, e adesso invece dobbiamo preoccuparci che le nostre istituzioni facciano bene il loro lavoro e che ci sia una buona capacità di monitorare come questo prezzo sale, con un controllo adeguato della filiera, anche nostro per carità. Però dobbiamo farlo dappertutto e farlo bene. Perché ragionando su quanto lei affermava prima sulla Russia, si perderanno delle tonnellate che comunque sono più che sufficienti. Io credo che il presidente di Vecchioni confermerà i miei dati, cioè alla fine anche se la Russia non vendesse il proprio prodotto non ci sarebbe alcuna giustificazione, perché le scorte mondiali sono tali per i quali potremmo fare pane per tutti. Quindi, no, perché dobbiamo tenere l'occhio sulla palla, cercare di capire chi guadagna e cosa, e se in maniera giusta o in maniera forzata, approfittando di un periodo. E se noi facciamo questo, secondo me questa cosa si ridimensiona da sola. Però le nostre istituzioni devono controllare adeguatamente questo. Allora, no, glielo chiedo perché un po' sul modello di quello che è successo con il petrolio, è bastato quando la speculazione voleva, prima dello scoppio della crisi, voleva cercare di fare arbitraggio, di recuperare quello che perdeva dai mutui, dalle case, attraverso il prezzo del petrolio. Bastava che ci fosse l'esplosione di un pozzo in Nigeria, un problema in Venezuela, per far schizzare il petrolio a 110, 120, 130. E poi, quello che noi vogliamo evitare. Esatto, e si sapeva benissimo che non era da lì, per carità, ma insomma, vista la produzione mondiale, non può essere lo 0,1 o lo 0,5 a determinare il record del petrolio. E se ho ben capito, il suo timore è che si usi tutta la vicenda russa, che è un timore che abbiamo anche noi, per dire: ecco, vedete, adesso si va a 10, 12, 13 dollari al bushel, a quel punto poi la farina fa di nuovo un più 20-30%, e sta salutando le mie frasi con le campane, sento Vecchiato, perché vedo che è d'accordo anche lei. E a quel punto poi tutto si scarica sulla filiera. Presidente Vecchioni, è d'accordo che complessivamente, per quanto preoccupante la situazione in Russia, non sia tale da giustificare aumenti del prezzo del grano? Cioè il ragionamento che ha fatto anche Mister Prezzi? Sì, ritengo che i dati, soprattutto degli stoccaggi a livello mondiale, confermino questo. Rispetto al 2007-2008, quando c'è stata la famosa fiammata e avevamo 130 milioni di tonnellate nei magazzini del mondo, oggi ne abbiamo circa 190, in piena situazione russa. A fine campagna arriveremo a 170, quindi le condizioni globali ci dicono che in termini di quantità non ci dovrebbero essere delle giustificazioni. Le condizioni italiane ci devono invece, io credo, indurre sempre di più a considerare questa esposizione dell'Europa e dell'Italia ai rischi volatilità come un fatto strutturale che dovrebbe richiedere una politica adeguata nei confronti di una filiera che per essere competitiva deve consentire a tutti di guadagnare il giusto, non distribuendo meglio il valore, ma creando nuovo valore su questa filiera alimentare da distribuire negli attori che sono evidentemente, tra virgolette, interessati tutti, in parte vittime dai fattori di contesto italiani. Però meno cereali in Italia, così come meno cereali in Europa, ma io penso all'Italia, significa perdere un fattore strategico in ordine all'approvvigionamento nazionale. Mi faccia capire, Vecchioni, lei dice questa vicenda, al di là del fatto che non giustifica, viste le scorte, non giustifica aumenti dei prezzi nel grano e quindi nella farina, perché ci sono più scorte di quando non vi fu due anni fa una crisi analoga, però può essere utilizzata per ragionare sull'approvvigionamento, esatto, un po' come settore energetico. Ma cosa volete fare? Avere più terreni coltivati a grano? Non più terreni, sarebbe sufficiente tornare alle nostre produzioni, tra virgolette, tradizionali, storiche. Noi oggi abbiamo sul tenero i 7 milioni di utilizzazione di tonnellate media, ne produciamo circa 3, e noi riteniamo che un paese come il nostro debba essere messo nelle condizioni di poter avere una produzione nazionale che supera di gran lunga il 50%. Questo dovrebbe valere anche per il frumento duro, anche se i numeri sono diversi. Ma certo è che quando in Europa in 10 anni si perdono 85 milioni di ettari e in Italia se ne perdono 3 milioni in 8 anni, noi stiamo perdendo superficie coltivata e coltivabile. Da una parte perché i terreni sono non più remunerativi e i produttori, come tutti gli imprenditori, se non guadagnano non si mettono a produrre sotto costo, dall'altra perché ci siamo mangiati anche una parte di terreno che poteva essere coltivato e non lo è più. Però il dato economico per il potere d'acquisto dei consumatori a cui lei faceva riferimento prima, che è quello che poi interessa a tutti, è che con una filiera alimentare e un approvvigionamento nazionale più fragile siamo più esposti a dei fattori esterni che ci saranno sempre, ma che basta che un cinese mangi una bistecca in più al giorno e aumenta il consumo dei cereali nel mondo. Quindi la Cina drena una materia prima neozelandese, canadese o russa che prima non drenava, quindi sotto questo profilo l'Europa e l'Italia dovrebbero porsi in un'ottica probabilmente politicamente più seria. Di maggiore autosufficienza, però non autosufficienza, comunque di maggiore produzione, un po' come avviene per gli approvvigionamenti del settore energetico e anche di diversificazione. Una cosa, Presidente Vecchioni, visto che oggi c'è un bel dato sul PIL italiano, devo dire, però l'unica voce che non vi contribuisce è l'agricoltura, cioè cresce il PIL grazie ai servizi e all'industria, la voce agricola ancora no. Lei è sorpreso di questo? Perché insomma, è strano che con queste richieste, tensioni, addirittura gli allevatori, alcuni, pochissimi, che non vogliono pagare le multe sul latte perché dicono noi siamo penalizzati dall'Europa, l'agricoltura non riesca a contribuire a una ripresa del PIL complessivo. Purtroppo non sono sorpreso perché i dati dell'agricoltura rimangono dei dati negativi. Noi siamo stati e siamo da sempre nelle condizioni di poter evidentemente avere un'agricoltura competitiva con un Made in Italy competitivo, ma i nostri fattori di contesto ci confermano che l'Italia, non dico l'Europa, l'Italia ha perso quasi 25 punti negli ultimi 3 anni sul reddito agricolo. Quindi il dato non è un dato, diciamo, nuovo, l'incapacità o l'impossibilità del nostro settore di contribuire maggiormente. La nostra è una grande industria, a me piace definirla così, che non si può delocalizzare, che ha 12 milioni e mezzo di ettari che ogni giorno devono essere coltivati, e non metterla nelle condizioni di essere competitiva significa estrarla, diciamo, quasi con un'operazione chirurgica dalla politica economica del paese. Questo evidentemente è... Guardi, noi le manifestazioni di questi giorni le abbiamo fatte anche per questo, a sostegno di un ministro che non può essere continuamente, diciamo, trovarsi nelle condizioni per cui le risorse si trovano per tutto, ma non si trovano per l'agricoltura. Il costo del lavoro agricolo. Ecco, in una battuta, perché siamo oltre ogni tempo, ma sulla vicenda delle quote latte, visto che ce l'ho in collegamento, voi andrete avanti, insomma, questa vicenda allucinante per cui andremo a beccarci un'inflazione. La vicenda delle quote latte è la dimostrazione di come ancora una volta l'Italia si è è un paese in cui purtroppo 1300 imprese rischiano di avere la meglio su circa 45.000, e quindi di come la politica che dovrebbe essere nelle condizioni invece di curare gli interessi generali, quando è fortemente interessata ad alcuni capitoli, cura interessi particolari, e noi rimaniamo della posizione che abbiamo sempre detto. Cioè, rimandare le multe non serve a niente, né alle imprese né a chi non le ha pagate. Non si capisce, io questa vicenda ovviamente non capisco nulla, non capisco la posizione della Lega, non capisco la posizione dell'ex ministro Zaia, non capisco tantissime cose, mi sembra una vicenda assurda. Abbiamo avuto il ministro Galan ospite proprio a raccontarci, insomma, lui non ha fatto il passo delle dimissioni, ma insomma non c'è dubbio che penalizzare una categoria per qualcuno che non ha voluto pagare, insomma, torniamo sempre al sotto ragionamento. Grazie al presidente Vecchioni, presidente Vecchiato, per non beccarvi voi la colpa e non vedere l'assalto ai forni, ci mancherebbe, assalto figurato. Però che controlli potete fare, che aiuto potete dare al garante sui prezzi per evitare che ci siano i furbetti? 5.000 imprenditori italiani della panificazione ha la libertà di organizzare il proprio prezzo come meglio ci mancherebbe. Ciò non toglie che noi siamo responsabili, che lavoriamo con tutta la popolazione, e la signora Maria, fra virgolette, è il nostro punto di vita e per far funzionare le aziende. Quindi nessuno ha intenzione di aumentare i prezzi del pane. La preoccupazione che la federazione si pone è quella, come le spiegavo, di verificare che qualcuno non ci inzuppi il biscotto, come diceva lei prima. Allora noi faremo un monitoraggio in tutte le province italiane mediante le nostre organizzazioni territoriali per capire quali sono i prezzi della farina, quanto aumentano e quanto in rapporto. Cercheremo di avere un contatto di filiera più intenso con i nostri collegati, quindi con i mugnai italiani che ci forniscono poi la materia prima con la quale si fa il pane. Cercheremo di fare tutto questo, ma soprattutto cercheremo, anzi io le posso assicurare, faremo in modo che l'opinione pubblica venga informata passo passo. Questo per capire e per far capire da dove viene fuori il problema, perché sennò diventa evidente che poi la stessa signora Maria che viene dal panificatore a comprare il pane vede che aumenta e dice: ecco, hai aumentato il pane e siamo in crisi. Quindi oggi, con la crisi economica che anche le aziende di panificazione stanno scontando in Italia, aumentare il prezzo vuol dire vendere meno, perché il portafoglio degli italiani è quello e non si allunga e non si allarga. Quindi stiamo facendo il conto con una corda tirata, e che tirandola di più si può rompere. Di questo siamo coscienti, siamo coerenti, ed è per questo il motivo per il quale questa cosa deve essere dalle istituzioni monitorata con estrema attenzione. Lo ripeto, è essenziale che Mister Prezzi, il Ministero dell'Agricoltura, monitorizzino tutta la filiera con attenzione. Chiaro. E noi siamo. Allora facciamo una cosa, Vecchiato. Lei faccia i controlli con i suoi associati. Andate a verificare nelle varie regioni come si muove il prezzo della farina. Poi, se nota qualcosa di strano, ci chiami. Facciamo prima fare così, tanto poi, prima o meno, la signora Maria riusciamo a intercettarla anche noi. Certo. E ci chiami e ci dice: guardate, che stiamo osservando tensioni un po' strane sulla farina. Se invece non ci chiama e aumenta il prezzo del pane, toccherà chiamarla noi, ma non è una minaccia, è proprio lavoro quotidiano. Io mi auguro di sentirla per altri motivi più piacevoli. No, ma mi sa che l'augurio è di breve respiro. Comunque lei ci faccia sapere se per caso notate qualcosa di strano, perché sono cose che seguiamo sempre con attenzione nel paese dei furbetti. Grazie e buona estate anche al presidente della FIPA, Federazione Italiana Panificatori, Luca Vecchiato. Vabbè, vedo tanti messaggi su questo, non possiamo oggi leggerli tutti, dobbiamo andare un po' di fretta perché adesso c'è la borsa. Non vi preoccupate, ce ne occuperemo, la terremo vigilata. Alcuni dicono: ma chi se ne frega con quello che costa il pane, altri sono i problemi. Non è vero, insomma, le filiere vanno controllate sempre, tutte bastonate, se no poi non ci si può lamentare alla fine. Certo che se l'esempio che mi fate è chi se ne frega del pane, quando poi si scopre che il primo evasore del Liechtenstein è un italiano che ha scudato 495 milioni di euro e altri 500 ne ha, Alberto Leotti Menarini, ho capito, insomma, lui il problema del pane non ce l'ha. Ce l'ha quello del brioche. La borsa, Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, giornata negativa per i dati sulla disoccupazione americani, peggiori delle attese. Alla fine però il MIBIT perde l'1%, meno 1,28 Parigi, meno 1,17 Francoforte. meno 0,70 Londra, meno 1,20 l'America, l'euro un po' sceso ma è 1,32,30, direi soprattutto Telecom Italia, vabbè, un leggero rimbalzo, più 1,6, Fondiaria, rapidi ma non invisibili. Sì, per quanto riguarda Fondiaria, ieri i dati semestrali ancora in rosso, ma con un recupero nel ramo danni sottolineato da quasi tutte le case di investimento, e quindi un rimbalzo che era nelle attese. Gli obiettivi del piano industriale per fine anno sono stati confermati e si attende un miglioramento rispetto a quello del 2009, oggi è stata capace anche di mantenere questo rialzo significativo con il peggioramento dei mercati nel pomeriggio. Ancora, devo dire che anche Unipol va bene, più 1%, Mediolanum più 0,40, quindi tutto si tiene sul fronte assicurativo, in parte perché poi Mediolanum è più risparmio gestito. Chi più ha perso invece? Tenaris. Qui ci sono i conti, però meno 3,5 Tenaris. Sì, i conti pubblicati ieri e più che i conti hanno preoccupato gli operatori, gli investitori, quelle che sono le prospettive per la seconda parte dell'anno. Tenaris si attende che le attività globali di perforazione proseguano la loro ripresa, ma un passo più lento di quello che si aspettava inizialmente, e questo ha finito per penalizzare il titolo, che ha perso 3,5%. Ancora Geox meno 3,4%, Intesa meno 2,14%, Luxottica meno 2%, Popolare Milano meno 1,90%, Ubibank meno 1,90%, Parmalat meno 1,70% come Snam e A2A e Pirelli, ma anche Buzzi Unicem. Poi l'1,60% l'hanno perso Enel e le Generali, l'1,5% in Pregilo e Ansaldo STS, ma anche Terna. L'1,2 il calo di Campari, l'Ottomatica e Italcementi, Autogrill meno 1% come Atlantia e Fiat e il Banco Popolare. Migliori e peggiori in assoluto, Olidata più 13% in una battuta, Olidata? Sì, Olidata ha dovuto smentire i rumors che le avevano fatto fare più 40% in quattro sedute, secondo cui Acer avrebbe pronto un'offerta d'acquisto per la società. Acer è già primo azionista con 29,9, ma la società ha smentito movimenti di questo tipo. Diasorin, che non è un'offesa, ma è una società, più 6,1%. Anche qui oggi c'è un'indiscrezione sul mondo, no? Sì, oggi il mondo parlava di un fondo di private equity, nello specifico KKR, pronto a lanciare un'offerta d'acquisto per la società di biotecnologie, la società biellese. È arrivata anche in questo caso la smentita, ma questo non ha impedito al titolo di fare più 6%, anche perché i conti hanno visto un balzo del 16% dell'utile, un rialzo delle stime 2010. Allora, ultima parte di Focus Economia e tema è una vicenda che ha dell'incredibile, che non riesce a chiudersi. Praticamente stiamo parlando dell'ultima privatizzazione, l'unica privatizzazione italiana sul tavolo dopo quella del monopolio tabacchi, insomma dei tabacchi italiani, quella che è stata ribattezzata, e non a caso, l'Alitalia del mare. Insomma, stiamo parlando di un gruppo che non fa altro che macinare perdite e che dei 16 pretendenti per la privatizzazione ne aveva visto restare in gara solo uno, partecipato in larga parte dalla regione Sicilia, pure quello è stato bloccato. Insomma, stiamo parlando di Tirrenia, che adesso è anche in amministrazione straordinaria, ma soprattutto, possiamo dire tranquillamente, è in alto mare. Son caduto dalla nave, son caduto. C'era il fango, onda su onda, il mare. Insomma, è una cosa incredibile, perché insomma Tirrenia attualmente costa a tutti noi, pensate un po', 22 euro ogni biglietto che stacca. Perché? Perché Tirrenia da solo non si mantiene, ha debiti per 760 milioni a fronte di un giro d'affari di 634. 250 milioni di euro è quello che ogni anno le viene dato come sovvenzione pubblica, tant'è che per i prossimi 12 anni lo Stato ha garantito che darà a Tirrenia circa 100 milioni di euro l'anno. Eppure, ciò nonostante, nessuno la vuole. Danzando insieme a lui. Ok. stringe. Ad occhi chiusi nessuno la compra, ad occhi chiusi nessuno la vuole, era rimasta in corsa, lo dico per chi non avesse seguito la vicenda, solo l'offerta partecipata in primo luogo dalla Regione Sicilia, ebbene su quello è arrivato il veto anche di Fintecna, quindi nemmeno la Colata Mediterranea Holding guidata dalla Regione Sicilia ce l'ha fatta. E dicevo, debiti, è costata fino adesso Tirrenia 6 miliardi e mezzo di euro negli ultimi 25 anni. La Regione Sicilia era disposta a entrare perché vedeva con interesse questi 100 milioni di euro di finanziamenti ogni anno che vengono dati da noi a Tirrenia, 100 milioni circa. Eppure molti privati hanno il dubbio che in realtà Bruxelles possa bloccare questi nuovi finanziamenti con l'accusa di finanziamenti di Stato. Insomma, un vero e proprio caos, però sembrano riaprirsi i giochi. Vincenzo Onorato, presidente della Mobi Lines, buonasera. Buonasera. Allora, Mobi Lines vuol dire, lei è già stato ospite nostro altre volte, proprio per parlare di Tirrenia, vuol dire insomma 24 navi, quasi 6 milioni di passeggeri trasportati l'anno scorso, 250 milioni di giro d'affari, e voi siete in utile, 4 milioni di euro di utile ogni anno, più 38%. Tra l'altro siete più piccoli come giro d'affari di Tirrenia, perché appunto loro fanno 650 milioni, però il costo del lavoro di Tirrenia è superiore del 25% a quello delle compagnie private. Allora, che cos'è che le ha fatto dire, beh, io potrei tornare a prendere in considerazione l'ipotesi di Tirrenia, visto che di tutti voi 16 pretendenti vi siete sfilati man mano tranne la Regione Sicilia? Aspetti, allora, prima di dire siamo più piccoli, noi siamo più piccoli senza la sovvenzione, perché c'è sempre questa visione ridicola di parlare del giro d'affari di Tirrenia includendo i 200 milioni di euro di sovvenzione, che non sono fatturato ma sono un'integrazione dello Stato. Senza la sovvenzione noi fatturiamo più della Tirrenia. Per quanto poi riguarda la situazione che si è verificata, cioè la sparizione di tutti i pretendenti, questo nasce, come ho già avuto modo di dirle, da un vizio partenza, che è stato quello di provare a privatizzare la Tirrenia insieme alla Sinemar. Sono due modelli di business completamente diversi e tra l'altro assolutamente inconciliabili. Noi non siamo come Mobi interessati minimamente a rilevare la Sinemar, siamo interessati alla Tirrenia. La Sinemar sono collegamenti locali difficilissimi da gestire per una locale, per una realtà che si muove su un territorio nazionale con connettazioni di marketing internazionale, per cui di fatto si rendeva impossibile da parte nostra l'acquisizione dell'intero gruppo. Io ritengo che se viene spacchettata la Tirrenia dalla Siremar e si procede a due privatizzazioni diverse, la Tirrenia troverà la sua collocazione. Beh, ricalca un po', mutatis mutandis, il modello all'Italia. C'è la Bad Company, che la Siremar, lo dico per chi in ascolto, la Siremar è la compagnia regionale siciliana che fa capo come controllo la Tirrenia, ma di fatto opera i collegamenti tra la Sicilia e le isole siciliane, insomma è tutta un'altra cosa rispetto ai collegamenti nazionali, un po' come la Toscana Toremar e la Campana Caremar, che però sono di proprietà già delle rispettive regioni. Quindi voi chiedete in sostanza che si scorpori la Siremar dal resto della Tirrenia, e a questo punto la Siremar potrebbe anche andare alla Regione Sicilia, diciamo, come avviene per altre regioni. Ma guardi, la situazione è alquanto singolare, perché poi il governo è riuscito a passare la Toremar alla Toscana, la Saremar alla Sardegna, la Caremar alla Campania, ma non la Siremar alla Sicilia, quella stessa regione Sicilia che poi ha optato per l'acquisizione non solo di Siria ma di anche Tirrenia. Se si ritorna al modello originale, il deal è assolutamente possibile. Quindi lei dice, insomma, perché, visto che la Regione Sicilia era disposta a comprarsi tutta la Tirrenia, non si compra solo la Siremar, che obiettivamente può avere anche una logica all'interno della Regione Sicilia, garantire anche i collegamenti, così. e non lascia la Tirrenia da collocare. La mia idea è, perché se si compra solo la Siremar non becca 100 e passa milioni di euro l'anno di finanziamenti statali. Ma no, io credo che buona parte dei finanziamenti siano proprio legati alla Siremar, non alla Tirrenia. E quindi insomma, resta il dubbio. Voi però, se si scorporasse la Siremar dalla Tirrenia, sareste disposti a collarvi una cosa che ha 80 navi, 10 milioni e mezzo di passeggeri trasportati ogni anno e appunto 3.000 dipendenti, ma qualcosa come 90 tra dirigenti, consiglieri e sindaci, oltre insomma alla figura, lo dico con massimo rispetto, mitologica ormai, di Franco Pecorini, che è da 25 anni, cioè dall'ultimo governo, dagli ultimi due governi della Prima Repubblica, amministratore delegato unico del gruppo, quindi insomma un caso penso rarissimo a livello mondiale. Però dico, voi sareste disposti a comprarvi Tirrenia se solo venisse scorporata la Siremar? Cos'è, Onorato, che vi fa credere di poter ridurre il costo del lavoro del 25% e portarlo quindi a livello delle compagnie private di collegamento? Ma guardi, la Ferrari, la Tirrenia, io sono solito dire, è una Ferrari con le ruote sgonfie. L'iniezione d'aria è un'iniezione di managerialità e professionale che noi riteniamo di poter fare. Di contro vedo una Tirrenia con una sede operativa laddove gravitano la maggior parte dei suoi collegamenti, che è la Sardegna. Quindi una Tirrenia con una sede operativa ubicata in Sardegna. Per cui lei è convinto che se solo vi levassero la Siremar, cioè i collegamenti regionali, voi sareste in grado in un tempo relativamente breve di portare inutile in pareggio Tirrenia? Non sono, ne sono convinto, glielo sto dichiarando. Ecco, per cui a noi costerebbe circa 100 milioni di euro in meno all'anno, giusto per... Per quelle che sono, è chiaro che la Tirrenia serve anche delle linee non remunerative, per queste linee la comunità europea consente chiaramente un contributo. Sì, a livello comunitario, non a livello di Stato italiano, però insomma cioè, per noi contribuenti. E del debito Tirrenia, mi scusi, ve lo accogliereste voi? È un debito importante che naturalmente va visto nei dettagli, perché va esaminato con estrema attenzione. Vabbè, comunque speriamo di vedere riaprirsi la gara, perché obiettivamente ci lascia molto perplessi. Accogliamo anche la sua nuova proposta. A questo punto in bocca al lupo a lei, come per tutti quelli che vorranno partecipare alla gara. Vedremo quando e con che modalità verrà riaperta la gara per privatizzare Tirrenia. Grazie a Vincenzo Onorato, presidente di Mobilines. Grazie a voi e buon vento agli ascoltatori. Grazie. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda. E vabbè, e allora tutti quelli che prenderanno la Tirrenia, la Mobile, Siremar, tutti le SNAV, auguri di buone vacanze, auguri di buon fine settimana. Da Sebastiano Brisoni è veramente tutto. Noi ci risentiremo non la settimana prossima, ma dal 16 d'agosto in poi. Ci sarà Simone Spezia la prossima settimana. Buon Ferragosto, buone vacanze, e speriamo appunto di poter viaggiare nel futuro anche su una Tirrenia privatizzata, ma soprattutto efficiente, che costi poco, senza soldi dei contribuenti. E un grazie non posso non farlo con questo swing a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Fabio Cantadore per l'assistenza in regia. È veramente tutto, buona estate, o almeno ciò che ne resta. Radio 24, la passione si sente.